Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ero piccolo, ma capivo che quella era la Seleção di Zico, Falcao, Cerezo e Socrates. Mia madre non rispose. Era un po' nervosa. Continuammo a camminare quando in prossimità della pompa di benzina, circa al 25esimo minuto, un altro urlo. Non c'erano dubbi. Il Brasile stava prendendo il largo e io mi trovavo in un quartiere popolato solo da brasiliani. Ciao, sono Nicola Blasi, vivo a Roma da sempre, ho 37 anni e faccio di lavoro il consulente informatico. Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0. Ha segnato Rossi. Perché a questa redazione non sfugge veramente niente. Noi ci siamo accorti, ma tempo fa, che sarebbero cominciati gli europei, che l'Italia avrebbe partecipato agli europei e che l'Italia avrebbe giocato domenica 10 di giugno alle ore 18. Di fatto a nessuno interessava, salvo a poche persone, ma noi abbiamo recuperato questo racconto di Nicola, che in realtà parla di una partita dei mondiali, di Italia-Brasile 3-2, e abbiamo deciso di mandarlo in onda oggi, di raccontare oggi la sua storia, in modo da avere come tema della puntata, come argomento della puntata, quello di tutte le partite della nazionale che avete visto, ma tra tutte quelle che avete visto, quella che in qualche modo vi è rimasta addosso, quella che vi ricordate di più, non tanto per la partita in sé, tanto quanto per quello che vi è successo intorno, perché eravate con qualcuno in particolare, perché magari invece non l'avete vista, perché è successo qualche cosa in quei 90 minuti in cui giocava l'Italia, ma è successo qualcosa a voi. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, ma anche il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. Manuel scrive, è la prima partita che ricordo davvero bene, cioè Italia-Brasile 3-2, anche lui come Nicola. Avevo da poco compiuto 10 anni ed ero con mia zia a casa di mia nonna. Ho visto per la prima volta piangere una persona. E poi ancora Angelo, la mia è Italia-Olanda, agli europei. Parliamo del 2000, quella di Toldo che para tutto. La famosa partita dei rigori e del cucchiaio di Totti. Io sono uscito in mountain bike e sono tornato a fine partita. 349-238-6666. C'è però oggi una piccola novità che è legata più che al profilo Facebook, al sito di Radio 24 e alla pagina in particolar modo di Voi Siete Qui. Perché, visto che molti mi chiedono, senti, io non ho Facebook e non so come trovare le cose, oppure non ho Twitter e non riesco a seguire il vostro profilo su Twitter, allora, per tutti quelli che non ce l'hanno e per tutti quelli che vogliono scoprire delle cose di più sul programma, la pagina di Voi Siete Qui, che trovate andando nella sezione programmi di Radio 24 e scorrendola fino in fondo, giusto? Il modo più veloce, arrivate e trovate la puntata del giorno, come al solito, cioè trovate Italia-Brasile 3-2, trovate un piccolo stralcio della puntata, trovate la playlist, cioè trovate le tre canzoni che noi mandiamo, i tre brani musicali. E poi da oggi ci sono anche visualizzati il nostro profilo Twitter, il nostro profilo Facebook, oltre che due cose importantissime: A, l'ebook da scaricare ancora per chi non l'avesse scaricato; B, la possibilità di prenotarsi al live del 19 di giugno. A questo proposito, sono rimasti davvero pochi posti, quindi se avete il computer davanti, andate a radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui, la trovate, vi ripeto, nella sezione programmi, e qui trovate, eccolo qua, link consigliati, Facebook, Twitter, partecipa a Voi Siete Qui live, ci cliccate sopra e compilate il form che si chiama anche scheda di accredito, lo inviate, lo stampate, vi presentate il 19. Vi ricordo che il 19 di giugno il live di Voi Siete Qui non è altro che una rilettura delle 10 migliori racconti. Credo che, quando è che chiudiamo? A fine settimana avevamo deciso che chiudiamo definitivamente, venerdì chiudiamo definitivamente le votazioni per la scelta dei 10 racconti che rileggerò martedì prossimo. È già martedì prossimo. Vi ricordo che alle 21 è in via Monterosa 91 ed è gratuito, è completamente gratuito. Per partecipare però prenotatevi in fretta, perché purtroppo non abbiamo più tantissimi posti, la capienza della sala è di 500 e siamo ormai lì. 349-238-6666, oppure Voi Siete Qui @radio24.it. A proposito dei migliori racconti che volete, i migliori, quelli che avete preferito e che vorreste risentire, ve ne leggo uno stralcio di uno che a me era rimasto particolarmente in testa. è andato in onda il 29 di novembre. L'aveva scritto Gabriele e si intitola Essere padre a Barcellona. Non ho mai voluto, forse per pigrizia, spostarmi neanche con la mente. Però adesso, grazie a te, giro Barcellona in motorino, parlo in spagnolo, quel tanto per farmi capire, al punto che sembro un cittadino del mondo. Mi vanto di conoscere tutta la città, do consigli ai turisti per non farsi fregare, perché è quasi la mia, questa città. Delle volte che sono venuto vado in spiaggia e mi ricordo tutto, e conosco i vicini, parlo di calcio e mi sta antipatico Messi. L'ultimo capitolo della storia vede mio figlio che mi sta chiedendo chi sono, come ho fatto a cambiare così tanto, e come ero da ragazzo, come era mio nonno, cosa diceva, come vivevamo all'epoca. E allora io scavo tra i miei ricordi e cerco di portarli a galla. I suoi racconti della Grande Guerra, ad esempio, e mi ritrovo bambino, negli occhi di mio figlio, incantato, che ascolto. Figlio mio, io te lo devo confessare. Con mio padre non sono mai stato così, come siamo ora, io e te, di fronte, da adulti, in un ristorante di Barcellona. Ecco, questa storia, vi ripeto, era andata in onda a fine novembre dello scorso anno. Se avete voglia di risentirla live, votatelo. E per votarlo, anche lì, andate nel sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e trovate tutto il modo per farlo. E poi ci vediamo martedì 19 di giugno alle 21, qui dalla sede di Radio 24, in via Monterosa 91 a Milano. Torniamo alla storia di oggi. Oggi si parla di nazionale, si parla di tutte le partite, o meglio, di tutte le partite, di quella partita che vi ricordate, della nazionale, per qualsiasi motivo. Questa è la storia di Nicola. Il 5 luglio 1982 avevo 7 anni. Per la verità non li avevo ancora compiuti. Ma si sa, quando si è bambini si vuole diventare subito grandi. E quindi dicevo 7 anni, ne avevo 7. E nella mia memoria è rimasto così. In casa tutto era pronto per la partita. I miei nonni, mio padre e i miei due fratelli erano presenti con magliette azzurre e bandiere tricolori. All'appello mancavamo solo io e mia madre, di ritorno a casa da un posto imprecisato di Roma. Eravamo a bordo della nostra 500 rossa, anno 1974. Dico nostra perché, pur essendo di mia madre e utilizzata per la maggior parte del tempo da lei, quell'auto è stata testimone involontaria delle vicende della nostra famiglia. La 500 rossa era il nostro marchio di fabbrica, era la nostra Ferrari, il nostro sette bello, la nostra portaerei. Quella macchina c'era da prima che io nascessi, praticamente, perché del 74, io sono del 75. Era una macchina che stava sempre in riserva fissa, perché la 500 aveva questa cosa che anche il rosso, però comunque continuava a camminare finché proprio non arrivava alla fine. Quindi molte volte uno si fidava di quel rosso della riserva che ti avrebbe portato ovunque, invece quel giorno la macchina si fermò. E quel giorno la 500 rossa del 1974 si fermò in mezzo alla strada senza preavviso, con noi dentro. A dire la verità, un segnale la macchina ce lo aveva dato. Ed era la spia arancione luminosa, forte, fissa. Quella della riserva. Solo che la 500 consumava pochissimo e mia madre la lasciava sempre brillare, quella spia. Tanto prima o poi un benzinaio si trova, no? Però stavolta eravamo solo lei ed io dentro a una scatola di latta silenziosa, fermi nel caldo afoso a 5 km da casa, mentre Italia-Brasile stava iniziando. I quarti di finale dei campionati mondiali di calcio. E noi ce la stavamo perdendo. Al quinto minuto del primo tempo, con una piccola tanica vuota, percorrevamo la via per arrivare alla prima pompa di benzina disponibile, quando un urlo di gioia proveniente dalle finestre ci sovrasta. La prima cosa che domandai a mia madre fu se lì in zona fossero tutti brasiliani. Sì, perché in questo mio approccio al calcio consideravo impossibile che il Brasile perdesse. Ero piccolo, ma capivo che quella era la Seleção di Zico, Falcao, Cerezo, Socrates. Mia madre non rispose. Era un po' nervosa. Continuammo a camminare quando in prossimità della pompa di benzina, circa al 25° minuto, un altro urlo. Niente, non c'erano dubbi. Il Brasile stava prendendo il largo e io mi trovavo in un quartiere popolato solo da brasiliani. Mia madre ha vissuto tanti anni in Brasile, quindi un po' dei suoi racconti, un po' così, io avevo l'idea del Brasile che fosse una squadra invincibile, no? Perché comunque il Brasile era il calcio, aveva giocatori che erano all'epoca famosissimi, però nello stesso tempo si fa l'Italia, ovviamente. Nella mia visione da bambino ero sicuro, insomma, che l'Italia andasse avanti, vincesse il mondiale, perché comunque è la prima volta, il primo approccio al calcio è stato quel mondiale lì. Rossi! Arrivati a destinazione, vediamo scendere una persona festante che si dirige dal benzinaio, che non vorrebbe mai essere lì in quel momento, gridando «Rossi! Paolo Rossi!». E allora capisco che non avevo capito niente, ma sono felice. Torniamo con la tanica piena e diamo da bere alla 500. Lei riparte e ci porta a casa, e tutto il secondo tempo è un insieme di emozioni mai provate. Il pareggio di Falcao, la tripletta di Rossi e quella parata di Zoff sulla linea e il fischio finale. Mio fratello ha testa in giù sul divano e l'altro che mi abbraccia. Una festa. Ecco, quel ricordo rimane indelebile, forse più della finale. Un'istantanea di un tempo che avrei voluto non cambiasse mai. Di un mondo che doveva rimanere immobile. La 500 rossa esiste ancora. È un po' acciaccata e con uno sterzo durissimo confronto alle nuove utilitarie. La guida ancora mia madre, con un po' più di fatica, ma la guida ancora. È sempre in riserva, come 30 anni fa. Però, anche oggi, come allora, è presente. Come un testimone silenzioso. Io i mondiali in Spagna me li ricordo poco, ma me li ricordo. La partita dopo quella col Brasile era la semifinale, quella contro la Polonia a Barcellona. Quella se la sono scordati tutti, perché la Polonia cos'era? Quando batti il Brasile non c'è niente che ti possa fermare. A parte forse la Germania. E noi la Germania l'incontravamo, semmai, in finale. E infatti l'11 luglio, Ale, la partita delle partite. Lo scontro di civiltà, fantasia contro organizzazione, pizza contro Würstel. Noi senza Antonioni e Graziani, loro in formissima. Noi con Paolo Rossi e tutta la voglia del mondo. Loro con la convinzione di essere più forti. Noi con l'energia della sorpresa e loro con la sicurezza di quella maglietta bianca e un inno nazionale che mette ancora paura. Non è che sapessi bene di calcio io a quel tempo. Eravamo a casa di un amico di mio padre. Una visione collettiva intorno a un televisore decisamente piccolino. I grandi erano tutti accalcati su un divano e per terra, mentre i bambini giravano per questo vecchio cascinale ristrutturato bellissimo, pieno di angoli in cui nascondersi e cose da scoprire. Ogni tanto passavo a guardare cosa succedeva e guardavo qualche minuto. Per esempio, mi sono affacciato proprio nell'istante in cui Cabrini sbagliava il rigore. E allora tutti mi hanno guardato un po' male. Ma io non capivo il perché, mica l'avevo sbagliato io, no? Se quello non sapeva centrare una porta, che c'entravo? Però, da lì in poi, anche se la partita mi ha interessato di più, ho deciso di guardarla da dietro lo stipite dell'ingresso. Così, almeno evitavo di farmi vedere. Erano tutti molto accaldati, perché era umido e c'erano 30 gradi, e c'erano appena stati gli spaghetti bollenti, con tanto peperoncino, per i grandi. Io il caldo non lo patisco, però sudavo uguale. perché correvo in giro per il cortile e ogni tanto mi fermavo a guardare cosa succedeva. Mi sono perso il gol di Rossi, ma ho visto quello di Tardelli. E tutti saltavano e si abbracciavano, e così non ho visto in diretta il suo urlo, quello famoso. Poi ne abbiamo anche fatto un altro, e battevamo la Germania, che nessuno poteva crederci fino al giorno prima. La partita era nostra, 3-0, e il presidente in tribuna che diceva «non ci prendono più». E poi, quando mancavano 2 minuti, succede quella cosa che mi è rimasta impressa. Segna Breitner, in mischia. Nessuno esulta, nemmeno i tedeschi in campo. Però si crea una situazione molto strana, che a distanza di anni ancora mi domando cosa sia. Una cosa di cui nessuno vuole parlare. I tedeschi non lo so, ma gli italiani si sono zittiti, sia allo stadio che in casa. Eppure essendo 3-1 a pochi minuti dalla fine, hanno smesso di festeggiare, perché è impossibile rimontare 2 gol in pochi minuti, però finché l'arbitro non fischia la fine, la partita non è finita. E poi, non si sa mai. E allora, in quel momento lì, io mi sono immedesimato in un tifoso tedesco e ho pensato che, cavolo, quel gol poteva farlo 10 minuti prima, no? Che si poteva ancora provare a giocarsela quella partita. Non è che tifassi contro l'Italia, sia chiaro, però mi veniva da pensare come se fossi con l'altra maglietta e che quel gol non contava proprio niente. Però, da tifoso tedesco, un po' mi faceva sorridere. Però perché sorridevo se tra un minuto l'arbitro avrebbe fischiato e gli altri avrebbero vinto? Era sciocco, eh? Però vedevo nei tedeschi, subito dopo quel gol, una certa fierezza, una certa soddisfazione. Per un gol che non contava niente e che nessuno si ricorda. Chissà. Non era certo la fiducia di potercela fare. Ancora oggi mi chiedo cosa fosse, eppure non so rispondermi, non ho idea. E però anche io sorridevo per quel signore coi baffoni che aveva fatto il gol più inutile della storia. E quando l'arbitro ha preso il pallone in mano, tutto è finito e sono potuto tornare a rincorrere i miei amici in cortile e a tirare calci alla palla contro il muro, sperando di non rompere nessun vetro. La spiaggia di guardia rovente era piena di gente. Si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto, fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello ed in testa un cappello. E lei stava senza mutande, ma io non la guardavo neanche. Mi infilavo i braccioli e poi dritto nel mare. Non sapevo neanche cosa fosse l'amore. 10 anni più tardi la vidi vicino a un falò e bruciava la carne e bruciavano canne. Io stavo seduto da solo a suonare la chitarra, a cantare canzoni, a cercare attenzioni. Ma lei non mi guardava neanche, ed io facevo finta di niente. Ingollavo peroni e iniziavo ad urlare. Carlo scrive: finale mondiale 2006, avevo la tradizione di vedere le partite della nazionale da solo con mio padre. Appena dopo il pareggio di Materazzi lo chiamo in un ospedale a operare perché lui fa il chirurgo. Lui esce di cattivo umore e in sala operatoria pretende che nessuno gli dica niente. Vedo tutto il secondo tempo e supplementari da solo. Dopo la finale della partita non vado in piazza a festeggiare, ma attraverso tutto il quartiere a piedi e vado in ospedale dove io e mio padre brindiamo nella saletta del blocco operatorio insieme agli altri medici e agli infermieri. Nottata indimenticabile. 349-238-6666. Erano sulla 500 rossa invece quella sera. Nicola, pronto Nicola? Ciao Matteo. Come stai? Piacere. Tutto bene, te? Bene, bene, il piacere è solo mio. Che sembra una formalità, però ti assicuro che è così. Dove sei adesso Nicola? Adesso sono fuori dal lavoro qui. Che lavoro fai? Sono appartato, lavoro nella consulenza informatica per clienti in giro un po' tra Roma e l'Italia, ecco. Quindi sei in sede o sei da un cliente? Sono da un cliente, però sono fuori dal palazzo, quindi sono... Cioè, quindi come è giustificato questa assenza al cliente? No, qualcuno lo sa, però diciamo i capi, okay, referenti non lo sanno, okay, quindi insomma, mi sono un attimo defilato, sarò al bagno forse per loro, non lo so. Senti, la 500 rossa è ancora in vita? La 500 rossa è ancora in vita, la guida ancora mia madre sicuramente, quindi come ho detto nella lettera, lo stress è diventato molto duro, forse io lo sento duro perché usando macchine un po' più moderne mi sembra molto più duro, però la guida ancora lei, sì. Senti, invece dimmi questa cosa che mi incuriosiva, il fatto che tu a un certo punto ti convinci nella tua testa che l'Italia non può vincere contro il Brasile e quindi tutto quello che accade lo leggi in chiave, vabbè, il Brasile ormai è già praticamente in finale. No, devi sapere che io in camera avevo due poster, quello del Brasile e quello dell'Italia, perché il Brasile per me era l'armata invincibile, cioè non poteva essere battuto il Brasile. Ma perché scusami sicuro. Nicola, dicevi che tua mamma ha vissuto in Brasile? Mia mamma è vissuta in Brasile, sì, i primi 18 anni circa della sua vita li ha vissuti là. Ok, quindi c'era una parte anche di affezione materna. Sì, sicuramente i racconti, ma anche poi con la musica, no? Mi sono molto appassionato anche al tipo di musica di quell'epoca. Sì. Mi piace molto. Quindi era un derby per te di fatto? Sì, ma io ti favo Italia, completamente Italia, cioè per me era stata un'emozione grandissima la vittoria dell'Italia col Brasile. Però diciamo anche oggi ho un certo piacere nel vedere la nazionale brasiliana, di sentire la musica brasiliana, comunque ho un certo affetto anche se non l'ho mai vista il Brasile, quindi prima o poi. Senti, invece dove l'hai vista domenica la partita, cioè ieri la partita? E invece ieri l'ho persa pure ieri la partita, pensate. Ma non per... erano 500. Non per motivi di benzina. No, per motivi di benzina, no, no. Senti, Nicola, senti, tu da Roma immagino non riuscirai a venire al live del 19. No, no, no, non mi sono prenotato veramente. C'è però un racconto che non sia il tuo, perché vale tutto, però in diretta, insomma, c'è un racconto che vorresti risentire in particolar modo, che ti ricordi di tutta la stagione, che avresti voglia di sentirti rileggere? Guarda, è piaciuto adesso ultimamente, quello che mi viene più impresso è quello dell'Iraq dell'altro giorno che ho sentito. È quello del militare che si trovava a Nassiriya. Il militare che si trovava a Nassiriya quel giorno stesso. E... hai un passato da militare tu, no? No, no, no, assolutamente, anzi ho fatto il servizio civile, che considero uno degli anni più formativi della mia vita. Però mi ha impresso quella storia perché comunque riconosco che fu un momento duro per tutti, no? Soprattutto per chi viveva lì. Nicola, senti, io ti ringrazio molto per la tua storia e per la chiacchierata, ti faccio tornare al lavoro. E saluta tua mamma. Sì, sicuramente la saluto, spero che mi stia sentendo. Grazie Nicola, buona giornata. Grazie a te. Ciao, in bocca al lupo, ciao, grazie. Luglio 82, finale Italia-Germania, domenica si va al lago, rischio di annegare, mi salva un tedesco che mi aiuta a raggiungere la riva, ho tifato per tutte e due le squadre. Giorgio, adesso la borsa e poi vi siete qui. Calcio d'angolo, terzo gol di Rossi. Voi siete qui. Beh, ma è straordinario, Nicola sembra nella foto che ci ha mandato un personaggio di un film di Tarantino. Ha la faccia con la barbona, gli occhiali a goccia, un cappellino militare in testa ed è... non so se è nel Texas o è da qualche parte nel Grand Canyon, negli Stati Uniti comunque ci sono queste rocce arancioni, forse potrebbe essere Petra, potrebbe essere Giordania, da quelle parti. Ha in mano una macchina fotografica, quindi è indubbiamente in vacanza. Ha una maglietta con scritto Sport Equipment, di quelle che ti porti in vacanza che poi le butti via perché di solito le usi solo per dormire, e mi ricorda quell'attore, non mi verrà mai il nome adesso. Chiudi. Allora, adesso vi dico come risaliamo al nome di quest'attore. Matrimonio sposati a Las Vegas. Un weekend a Las Vegas. Allora, ci sono quei quattro che vanno a Las Vegas a fare l'addio al celibato. È un film di 3 anni fa. Cioè, hanno fatto Una notte da leoni. Bravo Paolino. Una notte da leoni. C'è l'attore, quello comico, grosso, con la barba. 349-238-6666, perché chiunque si ricordasse il nome di quell'attore lì. Si chiama... ha un nome greco. Karagounis, non credo. No. Si chiama... quello di Bored to Death. Esattamente, lui. Vabbè, a breve ci arriviamo. 349-238-6666. Allora, io vorrei anche però comunicare, visto che arrivano tantissimi messaggi che raccontano dove ho visto quella partita, dove ero, cosa è successo, cosa non è successo. Vorrei fare la pace, ma vorrei anche che anche loro facessero la pace con il calcio. Tutti quelli che mandano messaggi di proprio livorosi contro il mondo del pallone. Cosa faranno mai di così eroico 22 pirla in calzoni corti che rincorrono una palla? Io direi è il caso di farci la pace con questa cosa, col fatto che il calcio è un fenomeno di costume, prima ancora che uno sport. Quando ci sono gli europei, i mondiali, succedono cose che vanno al di là dello sport. Uno vale che non se lo vede, uno può fare tutt'altro. Io non manco io l'ho vista ieri la partita. Tant'è, insomma, è semplicemente una cosa che accade e che è più grossa di un evento sportivo. 349-238-6666, vediamo se qualcuno si ricorda il nome. E me l'ha scritto Bud Spencer, mi scrive Paul Giamatti. Ma ragazzi, non avete capito, è uno... È... Galifianakis, una roba del genere, giusto? Con la G? Me l'ha scritto qua Margherita. Zach Galifianakis. Grazie Margherita. Andiamo avanti, continuiamo non a parlare di calcio, continuiamo a parlare di partite della nazionale. Lo facciamo in questo modo. Tutti quanti si ricordano la finale dell'82, più o meno, quelli che ci sono stati, magari quelli della mia generazione, dalla mia generazione in giù, dalla mia generazione in su è probabilmente più complicato. Però tutti si ricordano in particolar modo l'audio di quella telecronaca, la voce di Nando Martellini. Ecco, io non sono un passatista e non penso che sia meglio quello che c'era prima. C'è da dire però che le telecronache ultimamente sono chiaramente cambiate, perché giusto, tutto è cambiato, il calcio è cambiato, la televisione è cambiata. C'è da dire che sono quantomeno ansiogene, cioè le telecronache da 10 anni a questa parte, se sei un tifoso fai fatica a vederle perché rischi un colpo di cuore, poi ciascuno ha deciso che deve trovare il suo modo di dire prima il nome, poi il cognome, poi i gol, eccetera eccetera. Ecco, noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo preso i punti salienti di quella partita di Italia-Germania 3-1, abbiamo preso nemmeno la voce, le parole di Nando Martellini, e ho provato a metterle in fila come se fossero una specie di poema. Riprende Oriali, fallo di Rummenigge su Oriali, battuta la punizione, il cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi, gol di Rossi al 12° del secondo tempo. Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol di Tardelli, raddoppio Tardelli, uno splendido gol di Tardelli. Esultiamo con Pertini. 2-0. Tardelli ha raddoppiato. Stiliche verso Müller. Briegel va a terra, Briegel. Ma Gentile riesce a liberare. Conti. Contropiede, 3 contro 2. Siamo in vantaggio. Palla avanti. Conti. Traversone. Altobelli. E sono 3. Altobelli. Terzo gol di Altobelli. 9 minuti alla fine. 3-0. È il 36° minuto. Batte la punizione Hansi Müller, allontana Gentile, tiro di Breitner che accorcia le distanze, Breitner 3-1, è il 39° minuto. Bergomi, Gentile, è finito. Campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Pertini è il primo a stringere la mano ai nostri, poi vedete il re di Spagna, la regina, mentre lo stadio è tutto un tricolore. Gli azzurri hanno avuto un appoggio dai tifosi enorme in questo mondiale. E ora mi rendo conto di quello che provò l'amico Nicolò Carosio nel 1934 e nel 1938, quando disse dal microfono dell'Eyar quello che questa sera modestamente posso ripetere io. L'Italia è campione del mondo. Campione del mondo, il titolo più grande che possa essere conquistato nello sport più popolare del mondo. Un monumento di papel crepò in prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, un luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. Coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, ai, ai. Allora, vorrei fugare tutti i dubbi, perché moltissime persone mi scrivono che hanno compilato il form per partecipare al live del 19 giugno, l'hanno spedito, l'hanno stampato, ma non hanno ricevuto nessuna risposta. Non serve ricevere risposte. Se accadrà, probabilmente riceverete una mail in cui vi ricorderanno dov'è il live, a che ora è, di riportare la stampa. Ma non vi serve, se l'avete compilato, se l'avete spedito e se ve lo siete stampato, presentatevi martedì 19 giugno, poco prima delle 21, qui via Monterosa 91, e partecipate a quella che è una vera e propria festa, si spera. No, dai, possiamo dire così, alla fine è una forma di festa, con delle sorprese, giusto? È vero, me l'ho dimenticato, ma possiamo dirne una di sorpresa? No, se sono la sorpresa. Ma Corleoni è secco, eh? No, se è una sorpresa, giustamente, come mia sorella che spacchettava i regali di Natale il giorno prima, poi li ripacchettava tutti e faceva finta di sorprendersi. Un genio. Tra gli altri racconti potreste sentire, se avete voglia di risentirlo, quello di Eliano Bonafini, andato in onda il 3 gennaio, che si intitolava Partito Vergine. Le ragazze del paese, a mio avviso tutte meravigliose, si intrattenevano nell'atrio della scuola fino a tardi. I compagni di viaggio svedesi e norvegesi erano molto disinvolti, ma discreti, come i tedeschi e i danesi. Noi italiani, invece, allupati e senza ritegno. A 16 anni, pur essendo uno studente modello, non si riesce a sostenere una conversazione in inglese. Io non ero una cima a scuola, quindi per me una conversazione era impossibile. Alla fine della mia esperienza, l'ultima sera, Annika Martinsson, bionda, 17 anni, sorriso che illumina, seno di granito, mi chiede di passare la sera con lei. Il giorno dopo tornai a casa. A Malpensa mi accolsero mio padre e mia madre, io, il mio borsone e la mia mazza. Ero in Italia, avevo 16 anni ed ero partito vergine. Era la storia di Eliano che andava a giocare a hockey, se non ricordo male, in Svezia, e tornava una persona diversa. Grazie a lui, grazie a tutti voi che continuate a votare. Ci vediamo il 19 perché voglio rivenire al live. Intanto ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andreo. La storia di oggi era di Nicola e parlava di partite della nazionale. Quella di domani è di Nicole e parla di quelle cose pericolose di cui non si riesce a fare a meno. Grazie a una ricerca sbagliata su Google, scopro l'esistenza del volo dell'angelo. Da due paesini che sembrano presepi, ci si lancia a modello missile e si vola sul vuoto, sospesi a centinaia di metri di altezza. Hai un casco, una piccola vela sulla schiena, un gancio e la tua paura.